Le due date possibili sono il 13 e il 20. È arrivato il nuovo protocollo proposto dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti, per la ripresa del campionato. È molto simile nelle regole a quello per gli allenamenti. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional. A partir de la semana del 8 de junio volverá la Liga. In Germania Sky ha trovato un accordo per cui c'è la diretta gol. Credo che dovremo assolutamente pensarci anche in Italia, perché questo eviterà assembramenti, visto che le persone non possono andare allo stadio, e ovviamente io sono disponibile, se serve, a mettere nello stesso provvedimento che firmeremo per la riapertura del campionato anche le norme per consentire anche in Italia la diretta gol. Il ministro ha detto questo in un modo anche preciso, chirurgico, però non è che ti puoi prendere solo una parte, un pezzetto di quello che ha fatto la Bundesliga, ci hanno ricominciato a giocare a calcio. E in realtà loro hanno sistemato tutte le altre cose, hanno fatto l'accordo con i broadcaster, hanno fatto l'accordo con, diciamo, i calciatori, e da noi ci sono ancora molti punti interrogativi. Oggettivamente c'è una situazione non chiara, e dire poco, con la categoria dei calciatori. Ci sarà sicuramente la corsa contro il tempo, anche e soprattutto prima che si ricominci a giocare, cosa che ci auguriamo il 13 o il 18, aspettiamo il 28 le risposte. Io credo che a fatica questa barca sta partendo. Claudia Schiattone in redazione, Lorenzo Nespoli in regia, Roberta Frisani in pure regia, Gianmarco Ferronate montaggi. Mentre la Bundesliga, partita la grandissima, due giornate già giocate, domani sera la partitissima, la partita chiave, corsa al titolo, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, 18:30, mentre abbiamo sentito da Sanchez ora la Liga annuncia ripresa l'8, mentre l'Inghilterra ricomincia a allenarsi in gruppo, e di tutto questo parleremo tra poco. Il Milan, ed è notizia di questo istante che leggo in un'ultima ora, rischia invece di perdere Ibrahimovic, infortunio in allenamento, esami nelle prossime ore, rischio lungo stop. Queste sono le uniche parole per ora riportate. Pierluigi Pardo, buongiorno. Ciao. Il radio tweet, tanto per ricominciare. Sì, il radio tweet oggi è dedicato a questa maledizione del 25 maggio, visto che siamo in un'epoca in cui si vive soprattutto di ricordi e di memoria. Sappiamo che, così come c'è quel Blue Monday, gli scienziati a gennaio stabiliscono come il giorno più triste dell'anno, il giorno più triste della storia del calcio italiano è il 25 maggio, perché è il giorno delle tre finali perse da favoriti, dalla Juve contro l'Hamburgo, ancora prima dall'Inter contro il Celtic e poi dal Milan contro il Liverpool del 2005. Però, insomma, cosa c'è di più letterario della sconfitta? E poi, insomma, tutte hanno avuto modo di rifarsi nella loro storia, il Milan addirittura contro la stessa rivale due anni dopo, per cui insomma Blue è lo stimolo 25. Più grande che si possa vivere per uno sportivo, la sconfitta che ti porta a migliorare. Bravissimo, dico io, Blue on 25, dicevamo. Stefano Boldrini, esatto. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Parto da Stefano, dall'Inghilterra. Ovviamente lo sapete, scrive su Gazzetta dello Sport di cose inglesi che riportano la riapertura degli allenamenti di gruppo oggi, Stefano. Sì, loro stanno spingendo forte per tornare in campo il 12. A un certo punto sembrava che questa data fosse improbabile, poi invece anche i risultati dei primi test, finora ci sono stati 8 positivi nelle prime due tornate, tra i quali poi alcuni componenti dello staff, insomma, su una bella cifra di test. Gli ultimi sono stati 996 e solo 2 positivi, hanno dato un po' di ottimismo e stanno facendo di tutto per spingere, anche se questo comporterà purtroppo dei rischi. Avete riportato adesso la notizia del Milan, insomma, secondo me dovremo anche abituarci a pensare che ci saranno diversi infortuni in questa ripresa molto accelerata. Sì, questo è abbastanza inevitabile, abbastanza fisiologico, ma credo che il rischio vada ad aumentare man mano che passano i giorni senza attività per i giocatori professionisti. Intanto Filippo Maria Ricci, abbiamo detto prima di Sanchez, si sta facendo la punta alla BIC perché tra poco ricomincia, no? Esatto, sì, quello era il discorso del primo ministro di sabato, è la settimana dall'8, ieri sera ha parlato Tebas, stanno pensando all'11 giugno, un giovedì, il derby di Siviglia alle 10 di sera, perché ecco, questo è un aspetto, si parla tanto di infortuni, questo è un aspetto secondo me interessante, qui è scoppiato già il caldo, quello vero, e bisogna giocare 11 giornate quando in realtà bisognerebbe riposare, infatti prevedono partite molto tardi. Insomma, però giocare in Andalusia a luglio non è proprio il massimo. Ma va bene anche a mezzanotte, abbiamo già detto, Filippo. Esatto, sì, sì. E quindi no, questa è adesso l'idea è quella di provare a partire l'11 giugno col derby di Siviglia, dopodiché giocare tutti i giorni. E se vuoi ti introduco già il tema della televisione che avete messo all'inizio in copertina, ecco qui non c'è proprio l'idea di fare né diretta gol né niente, si è pagato per un servizio, lo si mantiene e basta. Io devo anche dire che sono abbastanza d'accordo. Cioè, io sono d'accordo, sono d'accordo, però Spadafora è tornato appunto sul suo vecchio cavallo di battaglia che ha già cavalcato in passato, cioè quello del calcio in chiaro. In Germania c'è una situazione particolare, c'è il canale, facciamo per comodità, il canale 200 di Sky che ha aperto diretta gol le prime due giornate, poi non so se andrà avanti questo esperimento, però in Italia mi sembra impraticabile, Pierluigi. Ma sì, o meglio, tutto è praticabile nella vita, io poi non entro nel merito di queste vicende perché primo perché ne so pochissimo e poi perché comunque lavoro in televisione, anche se ovviamente non ho un incarico dirigenziale, quindi ne so poco e rischio di fare danni. Credo che uno dei fondamentali elementi che ci sono da risolvere sia il rapporto tra televisioni e società di calcio, perché è evidente che già un campionato così non è come quello di prima, no? Perché comunque si gioca giugno-luglio, non si gioca come si giocava prima, le partite verranno inevitabilmente accorpate, per cui non avrai lo stesso spezzatino che c'era prima. Per inciso, ragione i calciatori nel dire 16:30 magari anche no, si gioca quando conviene giocare. Sì, ma io guarda, ti dico, sono anche veramente per orari molto tardi, perché alla fine è giugno-luglio, quindi mi piace anche una sperimentazione alla spagnola, lo so che possa fare anche a me. Cioè, tanto il pubblico non c'è, purtroppo, quindi voglio dire, alla fine a questo punto il disagio è solo per gli addetti ai lavori e per i calciatori. Si può anche pensare di giocare una partita veramente alle 23, una alle 20:30, una alle 23 e l'altra, non lo so, alle 18:40, se questa cosa può contribuire alle 18:30, se questa cosa può contribuire a minimizzare il rischio di infortuni, che è un tema, perché il caldo è ovviamente un tema, ben venga, ma pure a mezzanotte, ribadisco. Quindi il famoso diretta gol, diretta premium, quello che è, insomma, è chiaro che rientra nelle prerogative di una pay TV, e quindi insomma, bisogna un po' capire, è chiaro che nel momento nel quale lo offri il servizio a tutti, però non puoi pensare che nello specifico Sky non abbia qualcosa a pretendere. Però ripeto, non lo so, non è tema mio, però è chiaro che è un asset che Sky ha pagato. Il tema è molto delicato, molto delicati in questo momento i rapporti tra i contendenti. In Inghilterra qual è da questo punto di vista la situazione, come si configura, Stefano? Che anche lì c'era stata questa idea del calcio in chiaro per evitare affollamenti nei pub, eccetera, eccetera, però non è così semplice come dirlo. Non è così semplice, però è la cosa sulla quale loro spingono, per evitare appunto assembramenti nelle case o magari all'esterno di qualche stadio. Questa operazione potrebbe riportare in gioco Amazon, che quest'anno ad esempio ha trasmesso il Boxing Day, potrebbe addirittura portare alla diffusione in chiaro di alcune partite sulla BBC. Sarebbe un evento storico, per cui diciamo che ci sono varie proposte sul tavolo. Nelle ultime ore è tornata ad attualità la questione dei campi neutri, che sembrava essere stata rimossa. Forse si andrà verso una soluzione compromesso, cioè alcune partite in campo neutro, altre regolarmente, quindi nei campi di appartenenza dei club. Io devo dire una cosa: intanto che la Germania ha dimostrato ancora una volta di essere brava a semplificare le cose, sì, mentre l'Italia invece c'è l'arte proprio di complicarsene, ecco. Quindi secondo me la Germania ha intanto tracciato una strada, anche perché ha un'economia più solida, quello che volete, però insomma hanno semplificato abbastanza tutto, poi si è vista anche la gestione della pandemia. E poi qui bisogna, ripeto, mettersi d'accordo, vogliamo che il calcio ritorni, perché comunque è nell'interesse intanto dei club per questioni finanziarie, delle televisioni che comunque avevano dei contratti in ballo, ma anche per, diciamo, per dare qualcosa alla gente che ha vissuto, sì, per la prima volta, sì, un periodo invernale senza calcio. Lo vogliamo? Allora è chiaro che se lo vogliamo sappiamo tutti che sarà un prodotto diverso dal solito e accettiamolo. Ad esempio l'idea delle 5 sostituzioni mi sembra una scelta importante, perché sarà una garanzia in più che proteggerà i calciatori, e poi signori adeguiamoci. Intanto la cosa principale resta quella di superare questa pandemia, e nell'ottica di questa pandemia se rivogliamo il calcio dobbiamo accettare l'idea che non sarà, sì, ma senza neanche fare troppe storie, cioè sempre anche senza insomma sminuire il prodotto dicendo che è finto, è plastificato, è inutile. Ma nessuno, quando va in campo e c'è una palla e ci sono 22 giocatori, non è mai plastificato. Diciamo che l'opera di plastificazione magari la fanno spesso ministri, dirigenti, i calciatori sono sempre quelli che poi la prendono più seriamente e sono anche quelli più preoccupati. Quello che avete detto poco fa, cioè anche qui ci sarà un incontro importante con i giocatori e con gli allenatori domani, per mettere a punto gli ultimi aspetti di questo progetto di ripartenza. Però ripeto, la Germania ha dimostrato che si può tornare in campo senza fare troppe storie, senza fare troppe storie, offrendo anche un bel prodotto, perché a me le prime due giornate sono piaciute della Liga, Filippo, della Bundes, Filippo. E qua oggi hanno risaltato un aspetto interessante, visto che stiamo per ripartire, no? Tra l'altro, ecco, oggi è il giorno, qua arriviamo agli allenamenti in 14, no? Quindi siamo quasi al gruppo completo, però che mi sembra che nelle prime due giornate di 18 partite, 3 sole vittorie in casa, no? E quindi qui siamo a Madrid, la patria del miedo escénico. Allora dicono: ah, allora diciamo, non vale più, si gioca in campo neutro, non vuol dire più nulla giocare in casa. Ovviamente sono solo due giornate, però mi sembra interessante, ne dovremmo vedere più sul lungo, a lungo termine, però oggi se ne parlava qui e questo mi sembra un tema. Comunque, bel calcio, le partite sono interessanti e va bene così. Domani, no, c'è il Der Klassiker, sì, e andiamo avanti. Questa adesso è così, e sperando poi di chiudere, secondo me, l'ideale è chiudere in bellezza in agosto con le competizioni europee, sarebbe, sì, anche molto bello, invece, sì, che quegli inutili tornei estivi che ci dobbiamo sorbire, sì, cambieremo, sì, la Champions. Sì. Ci vuole grande fantasia e grande volontà nel riuscire a trovare degli aspetti, non dico positivi, ma consolatori, sì, però sicuramente pieno. Sì. No, però sicuramente sì, ragazzi, è inutile girarci attorno, non abbiamo alternative, mi pare che esatto, stia emergendo plasticamente in quasi tutta Europa, con grande rispetto per chi ha preso e imboccato altre strade, che fa la vita va avanti e si deve cercare di trovare una convivenza, anche se non piace a nessuno di noi, e veramente, tanto per essere chiari, non credo che nessuno dei nostri 4 stipendi sia minimamente legato a quello che succederà se si rigioca o non si gioca, quindi non è proprio il piacere di ritrovare un po' di normalità. Sì. Poi la parola definitiva. Sul discorso degli stipendi stendiamo un velo pietoso. Vabbè, non volevo aprire, però voglio dire, no, insomma, non è che ci cambia la vita, ecco, se si gioca o se non si gioca, è che credo che sia normale in qualsiasi momento, anche nei più cupi, e questo è stato un momento assolutamente cupo, assolutamente doloroso della nostra storia, e lo è ancora. Bisogna avere quella forza di provare comunque a immaginare il futuro. Lo hanno fatto i concessionari di macchine, lo hanno fatto i venditori di pacchetti turistici, l'hanno fatto i ristoratori, l'hanno fatto gli albergatori, e lo devono fare anche i presidenti delle squadre di calcio, ma con grande ottimismo, però, secondo me, perché non, senza neanche dare l'idea dobbiamo farlo per forza perché funziona così, ma non ne avremmo voglia, invece abbiamo una gran voglia a prescindere da sì, ma certo, anche perché abbiamo voglia della vita, abbiamo voglia della vita, no? Cioè vedere una partita del campionato tedesco, tutti i limiti, dice che ti frega il campionato tedesco. In questo momento vedo qualcosa di vivo che succede da un'altra parte di sportivo. Brutto. Finché vuoi, però intanto vedo qualche bella squadra, certo. Qualche giocatore, Sancho, Werner, Hakimi, Thuram, Havertz. Ed è anche interessante, scusami se ti ho interrotto, è anche interessante quello che sta emergendo secondo me dal campionato tedesco. C'è qualche tendenza, oltre al fattore campo, che è un altro tema, è anche il fatto che chiaramente ci sono meno proteste, c'è meno agonismo, cioè in pratica un po' la stessa cosa che vediamo nei talk show politici. Adesso c'è meno la ricerca dello slogan da parte del politico di turno, perché non c'è la clac, non c'è il pubblico, quindi si cerca di meno lo slogan ad effetto, e ho la sensazione che certi eccessi agonistici in queste partite che ho visto fino adesso a porte chiuse siano un po' stemperati, perché il pubblico, il tifoso è importante, e quindi quando il pubblico ti fomenta, il pubblico ti fa venire voglia, il pubblico ti tira fuori degli elementi di adrenalina assolutamente umana che in questo tipo di contesto non ci sono. Ecco, a me non fa impazzire, però devo dire che dal punto di vista dei tempi morti e delle proteste sicuramente è uno spettacolo più lineare. No, comunque è uno spettacolo che incuriosisce da andarlo a sbirciare. Posso dire una cosa? Devi. Se posso dire una cosa, siccome considero i calciatori una categoria superiore rispetto ai politici, ho l'impressione che se in campo fossero andati i politici sarebbero riusciti a fare le risse, anche perché ho sentito delle cazzate colossali in questi giorni, ma colossali, veramente cosmiche. I giocatori invece secondo me hanno più buon senso, quindi questo sicuramente. Io sono curioso di vedere come anche il dialogo in campo, perché anche per il calciatore cambia tutto, perché adesso sono la Bundesliga, magari insomma, ovviamente per noi c'è anche un problema linguistico così, però adesso se arriva la Premier League, la Liga o la Serie A ancora di più, è interessante anche vedere, no, come si parlano, che lingua parlano tra loro, cosa dicono. E come parlano con gli arbitri, perché adesso è chiaro che è tutto lì a portata di mano, voci, no? Nel non silenzio è più nascosto. In occasione dell'ultima puntata di Tiki Taka, prima della sospensione, dopo quel surreale Juventus-Inter a porte chiuse, Franco Piantanita, che fra l'altro Radio 24 conosciamo molto bene, aveva confezionato un servizio bellissimo, devo dire, con le voci, cioè dal punto di vista del grande fratello del campo, ci sono delle cose, ci saranno delle cose sicuramente interessanti. Si chiamano tra loro, penso che riguardi tutti noi. Il pubblico manca perché il pubblico non è uno spettatore dell'evento, protagonista, il pubblico di una partita di calcio è protagonista dell'evento, e te ne accorgi quando non c'è. Ragione, uno stadio inglese mezzo vuoto non l'abbiamo mai visto, quelli italiani mezzi vuoti li abbiamo visti, uno stadio inglese, ma neanche uno spagnolo mezzo vuoto non l'abbiamo mai visto, sarà particolarmente in qualche modo scioccante. Invece sul fronte in Inghilterra, fronte degli scettici, cui si era unito perfino Klopp, che ha voluto fare originale per forza con un'uscita che ha lasciato secondo me un po' il tempo che trova l'altro giorno, il fronte degli scettici, dei recalcitranti, come è messo in Inghilterra, Stefano? Ma io devo dire che ci sono alcuni club che hanno delle situazioni particolari, ad esempio il Chelsea ha questo problema con Kanté, di cui si è parlato anche in Italia, e devo dire che Lampard ad esempio è uno degli allenatori che è stato un po' più prudente sulla ripartenza. Poi c'è il caso Watford, perché Watford si è trovato in una situazione particolare, intanto tre positivi tra i quali un giocatore. Poi c'è il capitano Dine, che ha avuto questo momento di notorietà. Troy Dine non è un centravanti che è approdato in nazionale, che ha avuto una carriera quindi di appunto internazionale, però ha vissuto un momento di fama ora come leader dei calciatori nel confronto sia con il governo che con la Premier. Dine è uno di quelli che si è schierato a favore dei prudenti. Quindi il Watford è un club che un pochino sta cercando, come dire, di frenare. Però in generale la voglia di tornare, la voglia di incassare i soldi che daranno le televisioni e tutto quello che riguarda un po' il sistema economico inglese, poi alla fine metterà tutti d'accordo. Sì, anche in Spagna, no? Dove, in Spagna dove si è comunque consacrato Tebas come, come leader, sì, politico totalmente carismatico. È bravo, sì, esatto. Sì, lui ha spinto come una locomotiva e continua a farlo tutte le domeniche. Lui alle 10 ha organizzato questa, diciamo, cioè c'è una trasmissione sportiva qua, diciamo, nello Sky locale, il Movistar, e tutte le domeniche alle 10 partono con esatto, diciamo, la pubblicità per la ripartenza. Lui fa una piccola intervista, no? Ogni domenica finché non si riparte, è la grande locomotiva. Qui c'è stato un po' la paura dei giocatori dell'Eibar, che è intervenuto personalmente Tebas, diciamo, a dissipare, e poi c'è stato un giocatore del Cadice, che è la squadra che è prima in Serie B, in seconda, che ha detto che non si voleva allenare, non si è allenato per una settimana, dopodiché anche lui ha miti consigli, è tornato ad allenarsi e basta. La paura è legittima, però, insomma, perché poi dopo a far da contraltare, per esempio ieri c'è stata la festicciola all'Asado tra gli argentini di Siviglia, che sono stati subito puniti, adesso vediamo, però insomma, che si sono ritrovati con le mogli in un mega gruppo superiore, perché fino a 10 potevano farlo, erano più di 10 in casa, tutti vicini, senza mascherine, insomma, perché in realtà poi ecco si fa presto a dire no, non ci vogliamo allenare, sì, però appunto se poi dopo fai cena con le mogli e gli amici, e allora vatti a allenare, cioè, come dice Tebas, è molto più sicuro l'allenamento che qualsiasi altro luogo, e ha ragione, sicuro, che è tutto disinfettato, sicuro. Così, per cui questa è un po' mentre la situazione qua, diciamo, ecco, non c'è scetticismo. Vi metto insieme nella cosa un po' macabra, no? Nel conteggio un po' macabro che c'è in queste ore sul tabloid, su quel famoso Liverpool Atletico Madrid, che mi ricordo benissimo, sì, 70 giorni fa, insomma, noi, ma non soltanto noi, avevamo definito una follia assoluta. Rimane una follia assoluta quella, come l'assembramento dei tifosi del Paris Saint Germain dopo la partita col Dortmund fuori dallo stadio, cioè sono successe prima delle di Valencia, cose. Quelli del Valencia che accompagnarono la squadra allo stadio. Sì, no, sono successe delle robe che sono veramente incredibili, ecco. La differenza è che lì sono andati a contare i morti, chissà se dovessimo fare lo stesso discorso per Atalanta-Valencia o Valencia-Atalanta, insomma, certo. Perché lì l'hanno fatto, oppure i morti relativi a quelli che hanno fatto la trasferta fino a Liverpool qua da Madrid, insomma, sì. È un dato e ricordatevi che se non fosse stato per Ángel Torres, il presidente del Getafe, si giocava ancora l'Europa League. Sì, sì, sì, sì. È stato lui a risolvere. Eh? Sì, ne abbiamo raccontato la cronaca. Porte aperte, eh? Ne abbiamo raccontato, insomma, la cronaca in quei giorni, se ti ricordi, Filippo. Inter e Siviglia-Roma, no? Sì, esatto. Sì. In qualche modo influì positivamente anche il blocco aereo verso la Spagna. Ti ricordi, certo, che la Roma non però sapeva lì, fisicamente Stefano, dove lì era, il Wolverhampton giocò, vero Stefano, quel giovedì, no? In Europa League non ci sono state partite a porte aperte quel giovedì, comunque adesso non mi ricordo, c'era una squadra inglese che doveva giocare, mi sembra, però insomma anche il Torres è stato determinante in questo e finalmente se ne sono resi conto, così come era stato decisivo il caso di il positivo di Arteta in Inghilterra per la Premier League, certo. Sennò, visto che il primo ministro diceva che era tutto a posto, la sensazione, no? La sensazione comunque per chiudere questo discorso europeo invece è che la Francia si stia rendendo conto di aver preso una decisione un po' affrettata. Leggiamo ovunque gli strilli del presidente del Lione, che dice peggior decisione nella storia del calcio francese, che rischia di affossare molti club, e noi ci presenteremo a Torino, sì, ma con le mani legate e senza la testa, perché giocare quella partita in Champions, contando che si giocherà, sarà comunque poco più di una comparsata. Quindi credo che in effetti il tempo stia dicendo questo, no ragazzi? No, ma non soprattutto non c'era nessuna fretta di prendere quella decisione. Cioè, il coordinamento internazionale è fondamentale, anche perché stiamo vivendo una terribile pandemia che però cambia di giorno in giorno. Cioè, la situazione di oggi è molto diversa rispetto a quella di 3 settimane fa e potrebbe, ci auguriamo di no, tornare a peggiorare in futuro. Quindi, cioè, la situazione va costantemente monitorata. Farsi prendere dalla fretta in un senso o nell'altro, secondo me è sbagliata. I francesi se ne stanno rendendo conto, al di là del fatto che poi una risposta assoluta non c'è, perché insomma soltanto alla fine sapremo chi ha preso, sì, la decisione giusta. È chiaro che dei rischi nel far allenare questi ragazzi e nel giocare ci sono, come in ogni cosa della vita, però ad oggi la sensazione è che i francesi abbiano corso troppo. Sì, la sensazione è quella. Un'ultima cosa, Stefano Boldrini, che non riguarda questi discorsi ma altri più frivoli: Spalletti in Inghilterra come lo vedresti? Lo vedrei un po' in difficoltà, ma non per le sue competenze, perché Spalletti è uno dei migliori allenatori italiani, ma perché arrivare in Inghilterra a 61 anni non è facile, ecco. Poi lui, che è bravissimo e anche nel privato degli slanci di generosità, però sappiamo anche che è un grande permaloso e in Inghilterra i media sono bravi a farti saltare i nervi. Sì. Quindi non la vedo facile. No, neanche io, per questioni caratteriali. Beh, divertente, divertente. Sarebbe divertente, ma con sì. I tabloid sarebbe una bella battaglia, insomma. Ma guarda, i tabloid in realtà sono molto interessati ad alcune vicende. Poi Bold ce lo potrà confermare. Ma poi ci sono tabloid e tabloid, perché ad esempio il Daily Mail, che è un giornale xenofobo, che ha sostenuto, anche se adesso gli sta voltando le spalle, ha sostenuto Boris Johnson, però nello sport, nel calcio, sono molto bravi. Loro hanno fatto tra l'altro delle grandi inchieste sul doping. Ho un collega che adesso poi è passato al Times, ma che ha fatto un grande lavoro. Quindi ci sono tabloid e tabloid, così come ci sono generali, appunto, generalisti e altri. Quindi sì, sì. Usciamo un po' da questi schemi. Sicuramente Spalletti insegnerebbe il mestiere a molti allenatori in Inghilterra, perché Luciano è molto bravo, questo sì. Gli va riconosciuto. Se non gli danzano troppo sui nervi. Grazie Stefano. Grazie a voi. Ciao, ciao. Invece da te, Filippo, arriva Lautaro. Pochi dubbi non ce ne sono. Tanti dubbi non ce ne sono. Sì, mi sembra solo di capire. Bisogna solo scegliere la controparte. Bene, giù di questo mega scambione: Lautaro al Barcellona, sì. Con Semedo al City, Cancelo all'Inter di ritorno. Sì. Grandi barattoni. Ma sì, insomma, non ci sono tanti soldi. E comunque c'è una cosa: io penso le ultime che so io, insomma, dovrebbero esserci in ballo due giocatori più 60 milioni. E comunque in questo momento il Barcellona 60 milioni non ce li ha, poi li dovranno trovare e li troveranno probabilmente, però non ce li ha. E poi resta sempre da convincere Arthur per fare l'altro scambio che serve assolutamente alle plusvalenze e ai conti economici, quello con la Juve. E quello bisogna convincerlo, ancora non ci sono riusciti, ma penso che ci stiano provando in maniera seria, perché lo devono fare quello scambio. Quindi vediamo. No? Va bene, Filippo, ti saluto e ci sentiamo presto. Ciao. Allora, adesso abbiamo la borsa, poi diamo un'occhiata a quello che sta succedendo con questo mondiale di sci a Cortina, che non si capisce bene se verrà spostato al 2022, quindi praticamente a data da destinarsi, oppure no. Poi avremo Tommaso Labate, perché voglio capire qual è l'umore, quali sono i sogni, le speranze, le voglie, i tremori, i timori verso la ripresa. Tu che fai, Pier? Ma io sto con voi, Molto, molto bene. Allora, subito dopo la borsa, Giovanni Bruno, e diamo un'occhiata a tutte queste altre cose. Per il discorso di campionato svolto in temperature un po' alte, basta farli giocare di sera e il problema si risolve. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Domani Flavio Roda, io condivido al 100%, di questo ovviamente è stato informato anche il ministro, porterà al board l'esecutivo della Federazione Internazionale la volontà di spostare i mondiali da febbraio del 2021 a marzo del 2022. La federazione è garante anche e soprattutto di molti aspetti finanziari, parliamo di qualche decina di milioni di euro. Se poi a ottobre, a novembre c'è un problema, a questo punto il mondiale certo. Non si può fare. È una scelta assolutamente di buon senso, anche perché nel 2022 ci stanno le Olimpiadi invernali a Pechino. Il domani cui fa riferimento Malagò è oggi. Oggi si decide sullo spostamento dei mondiali di sci a Cortina dal febbraio 2021 al marzo 2022, cioè un mese dopo le Olimpiadi invernali di Pechino. Prima parlavamo con Pierluigi Pardo della tanta fretta che ha avuto la Francia di chiudere il campionato e ora forse c'è più di qualche ripensamento. Giovanni Bruno, buongiorno. Buongiorno Carlo, ciao Pier. Direttore, logico, lo ieri cui fa riferimento, cioè il domani cui fa riferimento Malagò è oggi, ma mi risulta che alla federazione non siano poi tutti così d'accordo in questo, su questo spostamento, che a me pare un po' prematuro. Hai perfettamente ragione. Secondo me è un doppio concetto, paura e soldi. Allora, la paura l'avete sentito da l'ultima parte della dichiarazione, cioè nel senso che avere a ottobre-novembre la concezione, magari il sapere che sarà duro organizzarli e per una questione di pubblico, per una questione di sponsor, per una questione di ancora in atto il coronavirus e tutto il resto, e allora diciamo meglio slittare. Finanziario, perché ovviamente in questo momento diciamo i borsellini, le borse, le sacche, le cose di tutti coloro che avevano decantato la cortina 2021 sono chiuse. In più c'è un problema anche di assicurazione finanziaria dei soldi, secondo me, che non sono entrati per la non conclusione, la non disputa della parte finale della Coppa del Mondo di sci. Non dimentichiamo poi un'altra cosa. Sì, l'Olimpiade del 22, ma l'Olimpiade del 22 e poi dopo, subito dopo il Mondiale, appunto, in mezzo alla finale di Coppa, ma c'è non dimentichiamo che c'è tutta la stagione di Coppa del Mondo, poi c'è l'Olimpiade, poi c'è il finale di della stagione di Coppa del Mondo e poi il Mondiale, o il Mondiale prima del finale di Coppa del Mondo, cioè mi sembra che è un controsenso, chiaro. Allora spostiamo al 2023, si sposta Courchevel al 2025, che non ancora state assegnati, allora si lavora con calma. Però mi sembra una situazione maledetta. Mi sembra sinceramente, non so se anche a te, anche per te è così, Pierluigi, un rinvio a data da destinarsi, per quanto siano grandi e importanti queste manifestazioni, diventa difficile incastrare tutto affastellare tutto in quella maniera lì. Mi sembra che una soluzione ottimale o anche quasi ottimale non ci sia, perché è chiaro, io credo che il tema economico sia fondamentale, questo momento in cui in tutti gli aspetti della vita gli sponsor certamente sono molto più impauriti e molto più prudenti rispetto a qualche mese fa. Credo che sia normale, tutti siamo più prudenti e più impauriti, quindi è chiaro che non è facilissimo adesso andare a organizzare questa cosa, in più con la possibilità che ci dicono i virologi che con l'autunno possa esserci nuovamente un picco, speriamo non tanto alto, ma comunque un picco di contagi. Però è vero pure che il 2022 è una soluzione per come è compresso il calendario e per l'importanza soprattutto delle Olimpiadi, che secondo me rischierebbero di cannibalizzare il Mondiale. Insomma, la soluzione ottimale non c'è, mi rendo conto. Sì, per il 2023 certo è una buona soluzione, però è due anni dopo, quindi ma non siamo è ottimale 2020, per definizione. È un data da destinarsi fin esatto, troppo lontano. Francamente, o restano al 2021, la soluzione nel 2022 è, passatemi il termine, un suicidio anche dal punto di vista degli atleti. Cioè, tu c'hai una preparazione in cui l'obiettivo non è tanto la Coppa del Mondo di sci quanto l'Olimpiade. Specie atleti che magari sono agli ultimi anni di carriera, specie atleti che non hanno ancora vinto, specie atleti che si vogliono confermare. Dopodiché vai in maniera, passami il termine ciclistico, vai a essere defaticante sui rulli dopo, fare la chiusura della Coppa del Mondo di sci. E tu un mese dopo c'hai altre gare di un'importanza mostruosa, perché chiaramente è mondiale, in cui possono magari uscire i famosi carneadi, ma non lo so. Ma sai, io ho un'altra preoccupazione, Giovanni. Deve essere un premio di consolazione delle Olimpiadi, quasi. Esatto, non so come qui dirti. Arrivi, bravo, scarico. Bravo, ecco. Bravo, sì, sì. Hai dato tutto. Non lo meritano. No, non lo meritano, hai dato tutto alle Olimpiadi, al finale di stagione poi arrivi lì. Ma io ho un'altra preoccupazione che volevo condividere con te, Giovanni. Cioè, si parla di rischio infortuni in tutti gli sport, la ripresa soprattutto nel calcio, eccetera, eccetera. Io ti dico, sono parimenti preoccupato del fatto che per gli atleti professionisti, se non cominciano a farli gareggiare, si scaricano come le batterie delle macchine. L'altro giorno Federica Pellegrini diceva: quest'anno niente gare 2021, e vabbè, ma da qui al 2021 continuando a fare allenamento ce ne vuole. Ne parlavo l'altro giorno con Sandro Campagna stesso, e beh, possiamo allenarci finché vogliamo, ma se non possiamo gareggiare per un professionista è un rischio elevato, questo? Elevatissimo, dici benissimo, elevatissimo, perché fai l'esempio adesso, i ciclisti sono in strada, però spesso hanno fatto 2 mesi di rulli e il rullo irrigidisce, è innegabile, perché hai uno sforzo di watt e di potenza che è completamente diverso rispetto all'uscita classica delle 4 ore in bicicletta, di cui ne passi magari 1,5 con muscoli più liberi. Ecco, soltanto quello vuol dire avere strappi, cioè, pazzesco. In più lo sci è un contronatura mostruoso ogni discesa che fai. Tu pensa soltanto una Sofia Goggia che ogni gara rischia l'impossibile per cercare di arrivare davanti alle altre, con delle pieghe mostruose. E dopodiché che succede? Finisce là per poi ricaricarsi per fare il finale di stagione, per poi ricaricarsi e fare il mondiale, mette a rischio, ma io non lo so, è qualcosa che mi lascia molto perplesso. È indubbio che c'è un concetto finanziario, non è il calendario, perché il calendario tra virgolette casino è quello del 2022, se tu piazzi un mondiale nel 2022, quindi c'è un concetto esclusivamente finanziario, sì. Vuol dire le assicurazioni che sono saltate, vuol dire che non hai la certezza di l'ingresso degli sponsor che prima ti avevano detto che volevano farlo. L'organizzazione del mondiale non è un giochino, perché ma comunque a questo loro punto hanno non l'unica sarebbe fortuna, l'unica fortuna, permettimi, chiudo, l'unica fortuna è che le piste che hanno disegnato per il mondiale vanno bene pure per l'Olimpiade, quindi di conseguenza tutto il nuovo che è stato costruito rimane come investimento per i giochi olimpici del 2026. A questo punto non sarebbe preferibile un atto di coraggio a lasciare i mondiali dove sono? Però certo, però è un rischio. È certamente un rischio. Ti deve andare tutto bene dal punto di vista. Ti deve andare tutto bene dal punto di vista del contagio e ti deve andare tutto bene dal punto di vista economico, nel senso che comunque però devi trovare degli interlocutori che rischiano con te, insomma, non è semplicissimo. Beh, la FIS non può che rischiare con te, l'unica cosa che può fare la FIS in questo periodo è quello che ti può dire, dice benissimo, teneteli dove sono, se c'è un minimo rischio li spostiamo al 2023. Oppure vuoi che te la butto lì? Andiamo al 2025 e lanciamo le Olimpiadi di Milano-Cortina. L'anno prima dei Giochi Olimpici, il banco di prova di un mondiale potrebbe essere anche un battage non indifferente. A quel perché punto viene cancellato nel 2022. No, ma è chiaro. Se vince, faccio l'esempio, guarda, ti faccio questo esempio per capire: vince la Goggia all'Olimpiade. Sto incrociando tutte le dita, e poi non vince il mondiale ma lo vince X, diventa di serie B. Firmiamo subito, diciamo la verità, perché ho detto la cazzata del secolo a livello di scaramanzia, è la sacralità, è la sacralità di un grande evento che è secondo solo alle Olimpiadi. È chiaro che se lo metti il mese dopo l'Olimpiade gli togli tutta la sua forza, su questo non c'è dubbio. Detto questo, poi c'è appunto anche il finale di Coppa del Mondo, non è che tu arrivi là, c'hai la Coppa del Mondo, l'Olimpiade, Coppa del Mondo, Mondiale. No, ma è ovvio. Vabbè, Giovanni, ci sentiamo, vediamo cosa vediamo cosa decidono su questo fronte e su altri. Io continuo a pensare che insomma sarebbe con coraggio meglio cavalcare comunque l'onda di una ripresa che sia per quanto possibile completa. Sono d'accordo con te, cioè a questo punto tentiamo il tutto per tutto, il 2021 magari un'opzione per girarla al 2023 o 2025. La cosa che è proprio sfiga, perché tu sai che il primo mondiale importante in Italia è stato fatto proprio da Cortina nel 32, poi non c'è riuscita nel 41 e poi ha avuto 5 tentativi per fare il mondiale e non c'è riuscita. Dal 2008 al 2019 ci ha provato sempre. Quindi è un mondiale maledetto questo. Mi viene in mente il 25 maggio che citava prima Pierluigi Pardo per le nostre squadre in Champions, nelle coppe europee. Il Blue 25. Grazie Giovanni, a presto. Grazie a voi. Ciao. Fermiamoci per il traffico, poi continuiamo. Abbiamo anche qualche ascoltatore. 800 24 00 24, se volete intervenire. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Intanto, ed è un'altra notizia di oggi, salta definitivamente il finale di stagione dell'Eurolega di basket. C'era oggi riunione decisiva per decidere del board. Ebbene, l'Eurolega è finita qui, così come il resto della stagione cestistica, salvo ovviamente l'NBA, perché lì invece è notizia che si continua a parlare ed è molto vicina, molto probabile l'ipotesi, che peraltro è quella dei miei sogni, ma questo chi gliene frega qualcosa, di un finale di stagione a Disney World in Florida tra luglio e agosto, con Topolino in campo, ripeto, e a me piacerebbe tantissimo, non so a te, Piera. Andiamo, non si può andare, siamo in TV. Ma sai che meraviglia. Benissimo. Sai che meraviglia. Tony da Como, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo intervenire per dire che è vergognoso accettare che il giro venga fatto a ottobre in concomitanza con le classiche, è una vergogna. Chi l'ha accettato? Avrà accettato qualcuno, eh? Sì, qualcuno l'ha accettato, storcendo il naso. Io sono d'accordo, Tony. Io è una cosa, l'unico che è stato all'altezza e ha avuto il coraggio di esporsi, di difendere questa cosa, è stato Merck. Gli altri hanno taciuto tutti. È una vergogna, credetemi, perché poi non si farà, perché ci saranno mille problemi, lo sapete meglio di me, il tempo come in Italia a ottobre, i grandi passi si annulleranno e era meglio non farlo. Per dare precedenza a un tour che ha salvato per 7 volte Armstrong in gara. E lo so, ma qui torniamo alla vecchia disputa con i francesi che si incazzano, oppure ci incazziamo noi. Il calendario viene compresso in autunno, settembre-ottobre, e anche lì, come per il Roland Garros, purtroppo i francesi hanno questa corsa monumento e diciamo che fanno un po' come gli pare a loro, no? Esatto, esattamente, hai detto tutto tu. Fanno come gli pare, hanno la forza di poter comunque riuscire a dettare l'agenda, e non è il massimo, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Sì. Invece, tornando al discorso calcistico sulle coppe, un finale delle coppe ad agosto piacerebbe a tutti, anche a te, no? Ma io credo che quella sia l'unica vera, no, certezze non ce ne sono, però io credo che quella sia la cosa più probabile di tutte, perché sono poche partite, perché l'UEFA appunto ha un potere enorme economico e anche di prestigio, perché stile anche il Lione, no? che difficilmente giocherà il suo campionato, però pensa alla partita con la Juve, ci pensa con pessimismo, ma ci pensa, e quindi io credo che le coppe saranno ad agosto, e tutto sommato mi sembra un po' per il discorso del format e un po' per il discorso del prestigio la cosa più semplice e più certa di questo momento. Invece come immagini il mercato estivo? Perché prima parlavamo, insomma, si parla molto di questi scambi, di questo ampio uso, largo ricorso al baratto, quindi giocatori che si spostano esclusivamente per via di scambi. Ci sarà una finestra di mercato fatalmente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati, perché per ovvie ragioni, con una stagione che praticamente comincia sulla coda dell'altra, sarà tutto molto diverso. Che scenario ti immagini? E soprattutto quelle che negli ultimi 15 anni hanno fatto saltare ogni tipo di banco grazie al loro potere economico, cioè gli inglesi. Io riesco a vedere un mercato forse più, parola enorme, ma più democratico. Tu? Lo vedo più democratico, lo vedo con mille incertezze, mille dubbi, anche perché quest'anno noi abbiamo veramente la coincidenza tra il finale della stagione, le coppe europee, il mercato. Credo che ci sarà anche un effetto di questa pandemia, cioè chi riparte riesce a tamponare le perdite sicuramente avrà un vantaggio rispetto a chi, come ad esempio i francesi, si sta fermando, e quindi guarda, è molto presto e ci sono troppe variabili, secondo me, per fare delle conclusioni definitive. Sicuramente un effetto ci sarà, un effetto economico sui conti delle società, quindi poi in prospettiva e nel medio termine anche sugli stipendi dei giocatori ci sarà. se questa cosa diventerà un calmierizzatore, cioè se la perequazione aumenterà, io questo non lo so. C'è anche il rischio che guadagneranno di meno, tanto per capirsi, i giocatori più facilmente sostituibili, un po' come quello che si dice per esempio delle abitazioni, no? Le case di grandissimo lusso probabilmente conserveranno un loro mercato perché sono uniche o quasi, quelle di fascia media o medio-bassa invece sono quelle più soggette alla speculazione e al calo nei momenti difficili. Magari ci sarà un meccanismo di quel tipo, insomma, io non credo che Cristiano Ronaldo o Messi vedranno il loro stipendio calare più di tanto. No, no, però è ancora no. Presto, secondo me, per arrivare a una conclusione, non dico certa, ma insomma già con un buon livello di probabilità. Intanto la Germania sta facendo tra le pieghe di questo momento strano, sta mettendo in mostra tutti i suoi gioielli, giocatori anche che non stando a guardare partite tutto il giorno conoscevamo relativamente, non ti dico di Sancho che è un super giocatore Borussia Dortmund, non ti dico di Timo Werner che interessa a molti. Però vedere giocare con continuità uno come Havertz, per esempio, è un bel piacere per gli occhi. Poi sto notando anche, non so se sarà la suggestione del momento, che il calcio tedesco si lascia guardare altro che Pierluigi. Sì, ma il calcio tedesco in questo momento si lascia guardare anche perché è l'unico che c'è, e quindi diciamo, ma pure questo, no, voglio dire, anche questo è marketing, se vuoi. Sì, sì, spinto. Il livello tecnico, secondo me la spettacolarità delle partite in Germania è sempre stata buona. Quello che manca rispetto ad altri campionati, secondo me, è una sacralità e insomma a me non fa impazzire. Però per esempio quando ero ragazzo lo guardavo con grandissimo fascino. Poi sicuramente adesso guardo di più lo spagnolo rispetto al tedesco, però lo spettacolo non è mai mancato, lo spettacolo e il talento secondo me non è mai mancato, e anche l'atmosfera degli stadi era un'atmosfera molto molto bella finché ci poteva andare la gente. Quello che manca secondo me rispetto al campionato inglese, soprattutto a quello spagnolo, secondo me sono i picchi di spettacolarità di qualche nome, però è un campionato bello, un bel calcio assolutamente, insomma, sì, non lo scopriamo certo oggi. Sì, no, ma bello anche perfino nei cartonati sugli spalti come quelli del Borussia Mönchengladbach che abbiamo visto l'altro giorno. Beh, quantomeno a loro li abbiamo sempre tacciati di poca fantasia, certamente la fantasia non gli manca. Hanno guardato Propaganda Live, hanno guardato sì, Zoro sì, e... sì. No, tra l'altro hanno fatto mica pochi soldi, mi sembra un 250.000 euro di incassi in uno stadio vuoto, ovviamente. Cioè, tutto ciò che riguarda la fede verso la propria squadra è assolutamente meritevole, può diventare foriero di idee, anche di creatività, anche di marketing. Vedo che ci cominciano ad esserci le mascherine delle squadre, per esempio. L'altro giorno ho registrato una cosa in uno studio, c'era un maestro di musica tifoso della viola che si era cucito il giglio e c'aveva la mascherina viola fatta, ho visto quella della Juve originale, insomma. Beh, sacerdote che officia la messa a Genova con la mascherina della Samp, non male anche. Capisci? Senti, ci sentiamo domani. Sacro profano tutta la vita. Ciao Pierluigi, ci sentiamo domani. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Lorenzo Nespoli in assistenza, ovviamente Roberta Frisani, Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati domani alle 14. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti!